ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Siamo qua in compagnia di nostro pusher Giuseppe e Nino Spezzano, non ci torna a trovare. È una novità anche la versione video che stiamo sperimentando per cercare di comunque creare un qualcosa di nuovo e più accessibile a tutti. Ragazzi, parliamo della parte, diciamo, delle cose da fare a Laos, di quello che ci aspetta, e ci aspetta un periodo di lavori molto importanti. Molto, perché comunque ci sono dei lavori importanti a Laos per praticamente rifarlo quasi da zero, e quindi speriamo bene per questa cosa, ma alla fine verrà un progetto molto innovativo e anche molto più versatile, perché alla fine ci saranno due salette, la possibilità per gli artisti di restare anche qua a riposare, quindi sarà uno spazio molto più elastico e importante. Altra cosa che inizieremo in questo periodo, in questi giorni, approfittando anche della pausa dovuta da questi lavori, registrare finalmente i nostri corti, cosa che ci ripromettiamo di fare da tempo in memoria praticamente. Ora, visto che Laos sarà un po' fuori gioco per un po' di tempo, faremo il primo corto, e penso che tra 2-3 settimane lo possiamo già mettere online, perché sono poche battute, poche riprese e via. Altri commenti? Nino, come vedi questo progetto del Laos? Ma è proprio straordinario, insomma. Nino ha visto in anteprima il disegno della situazione. Sì, anche, diciamo, c'è uno studio, direi, ergonomico, per così dire, su questi spazi, che li ha ottimizzati al meglio. E anche, diciamo, con una concezione multimediale. Certo. Al momento chiaramente ha intenzione di sviluppare diversi progetti video, audio, e chi, esatto, più ne ha più ne mette. E poi da artista apprezzerai, come ho detto prima, il fatto che ho pensato a un angolo per far riposare gli artisti. Assolutamente, c'è un concetto di filiera produttiva, diciamo così. È chiaro che è molto più, insomma, facile, insomma, ricevere degli artisti, e anche da parte loro, insomma, essere così accolti, avere questa comodità, che poi per un artista, per la verità, diciamo la verità, è importantissimo, è un aspetto poco insomma considerato, però è importantissimo avere la comodità, rilassarsi prima e dopo il concerto. Soprattutto dopo. E poi per l'artista, come ho detto prima, il tesoro, lo scrigno un po' della sua conoscenza, il famoso furgone con gli strumenti che qua sarà a portata di mano, cosa che negli anni ho imparato a non sottovalutare affatto. Mi è capitato comunque artisti particolarmente preoccupati di questo. Sì, infatti questo è un problema importantissimo, anche perché noi chiaramente non vivendo in un contesto geografico proprio al centro, diciamo, della Calabria, né tantomeno dell'Italia, e quindi i percorsi per arrivarci sono lunghi, e quindi è più facile contrattare anche sicuramente con gli artisti, abbattendo praticamente i costi. Va bene ragazzi, dita incrociate per noi e per Laos, e intanto continuiamo con uno spazio musicale. Visitate www.back.it, cliccate la Cena dei Regini per contattarci e per darci anche il vostro sostegno morale su queste cose, che ce n'è anche bisogno. Quello fisico, se venite a lavorare con se noi, se qualcuno vuole venire a contribuire. Adesso i Beekeeper con Nice Lunch. Say to me. ragazzi, bentornati alla cena dei regini, www.back.it, cliccate la cena dei regini per comunicare e anche ascoltare le puntate precedenti. Adesso entriamo nella zona un po', diciamo, delle notizie, la zona civica, diciamo così, della trasmissione, parlando dei nuovi progetti che riguardano gli spazi pubblici regini, in particolare quello che ho visto ultimamente protagonista, Piazza dei Nava, che è un luogo caro a molti giovani regini perché è stato centro via vai di tante serate in centro. È stato presentato un progetto che adesso vuole del tutto andare a rivisitarla. Vuol dire comunque, ho visto molto molto cemento, molta differenza con quello che è lo stile Liberty classico della Reggio che conoscevamo tutti. Adesso si sta un po' rivedendo esteticamente, e questo progetto però ai regini essenzialmente non piace. C'è stata una specie di sommossa popolare sul progetto della nuova Piazza di Nava, così come per altre situazioni regini, che diciamo che questa Reggio 2.0 a Regino non piace. Sì, a parte qualche, diciamo, qualche tecnico, qualche addetto ai lavori, così, insomma, di ispirazione un po' futurista, futuristica, insomma, a parte questo, diciamo che quasi la globalità dei regini che hanno avuto modo di conoscere il progetto nei dettagli, sono arrivato alla conclusione che è un progetto devastante. Io stesso personalmente ho avuto modo di assistere proprio a una videoproiezione del progetto con un'analisi molto dettagliata, e bisogna dire veramente che è un progetto che, tra l'altro, in questo momento storico così delicato per la città, con questi problemi economici enormi che ci sono, in questo momento fermare le attività commerciali di Piazza de Nava, scavare fino a 10 metri per creare, poi alla fine il progetto prevede questo, una... Esatto, le differenze da adesso alla nuova Piazza de Nava sarebbero? Intanto c'è un'incongruenza fra lo stile attuale Liberty, che è in linea con tutto lo stile della città, perché la Reggio è una città con molti edifici su questa linea dello stile Liberty, quindi un progetto che cozzerebbe, insomma, dal punto di vista stilistico. Ma oltre a questo, diciamo, appunto, c'è questa piazza unica, sparirebbe praticamente la corsia, il corso Garibaldi, per realizzare questa piazza unica, dove su un lato verrebbe addirittura il posteggio degli autobus con questa vetrata lunghissima che serve a portare la luce nel sotterraneo. E, insomma, un progetto futuristico per poi realizzare un bookshop e una caffetteria sottoterra, quando già la piazza è piena di caffetterie. Ma poi non c'era il progetto di integrarlo col museo, cioè nel senso di fare una cosa del genere all'interno del museo, no? Il museo no, è la piazza che praticamente è antistante l'ingresso del museo, che diventa una piazza unica. E quindi con questa, soprattutto l'aspetto più viene identificato come deleterio, appunto questo ipogeo, cioè questa galleria sotterranea molto lunga, appunto si dovrebbe scavare 10 metri in profondità, quando già si sa, io ho visto personalmente, ho visto anche le fotografie, le immagini di qualche anno fa, che sotto, oltre l'ottavo metro, se non erro, si trova una necropoli ellenica, per cui nel momento in cui si scaverà, si troveranno questi resti, ci sarà un contatto di restauro, per cui si bloccheranno sicuramente i lavori per una decina, quindicina d'anni, come è successo a Piazza Italia, che abbiamo già avuto l'esempio, il che significa bloccare l'economia di una città per 10-15 anni. È vero è che ci sono questi 10 milioni di euro di questi fondi PAINE cosiddetti, che riguardano i beni archeologici, ma è anche vero che se noi ne perdiamo 10 a non fare il progetto, ne recuperiamo 33 che andremo a spendere nel momento in cui si dà vita a questo progetto. E l'alternativa quale dovrebbe essere? Ma l'alternativa, diciamo, ci sono tanti, tanti modi di rivitalizzare un museo, insomma. Tra l'altro è stato realizzato anche un ristorante sul tetto di recente, un ristorante. Esatto. È stato, ma il museo si può rivitalizzare intanto sia all'interno che all'esterno con delle attività culturali come è stato fatto in passato. Mm-hmm. Il museo sono state realizzate delle bellissime stagioni concertistiche di musica classica e non... con degli eventi d'arte, le esposizioni, per esempio, come è successo adesso, che insomma si stanno esponendo dei quadri sequestrati, insomma, una collezione rarissima, pregiatissima. Ci sono mille modi per rivitalizzare il museo, rivitalizzare. E anche tenendo conto, venendo al discorso, poi degli altri spazi che ci sono. Tra l'altro fruibili, per esempio, noi andiamo a scavare 10 metri per fare un book show. Un bookshop e una caffetteria, quando non abbiamo per esempio le tavernette del teatro comunale che sono inutilizzate, che negli anni 60 quando il teatro comunale Cilea è stato al suo massimo fulgore, perché è stato un momento del 64 in quegli anni che ha raggiunto un fulgore straordinario di vita culturale, per cui appunto la tavernetta, alcuni locali del teatro Cilea erano il punto di incontro della vita culturale della città, sì, quindi riutilizzare e oggi si potrebbero riutilizzare, e qui entra in gioco appunto gli spazi culturali, perché se ne andiamo a parlare poi permetti anche una riflessione: il museo è stato riaperto da poco. No, il museo, diciamo che in che stato è? No, il museo, diciamo, non è che è accessibile completamente, ancora in una fase adesso si dovrebbe inaugurare col rientro dei bronzi, peraltro, che si sta aspettando. Ed è importantissimo, chiaramente il museo è al centro del rilancio di Reggio Calabria. Mm-hmm. Ne abbiamo pure parlato in qualche altra trasmissione, abbiamo parlato del distretto culturale, che non è una cosa così, una velleità, ma è un progetto ben preciso che peraltro è verso gli uffici del comune, è un progetto che io ho visto anche realizzato in tridimensione, visibile a computer, quindi mm-hmm. tridimensionale, dove già c'è questo distretto culturale. Che poi in effetti sarebbe un distretto turistico culturale, se consideriamo che al museo, al Teatro Cilea, all'Arena dello Stretto, all'Arena Lido, alla Via Zaleuco, alla Villa Zerbi, che si rappresentano tutti i distretti culturali, insieme anche al Teatro Siracusa, i teatri di Gallico, di Catone, che sono in fase di costruzione, e altri spazi importanti, ad esempio il Cine Orchidea, che è stato assimilato dal comune, proprietario del comune, e che la via Zaleuco dovrebbe diventare la via degli artisti, rivitalizzando il cinema della Orchidea, che è uno spazio straordinario. Ma in quest'ottica quindi sarebbe addirittura meglio lasciare la piazza per com'è, cioè Piazza de Nava, quella situazione? Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Anzi, per noi è importante in questo momento rilanciare la città attraverso questa proposta del distretto culturale. E che può incamerare risorse straordinarie, oltre all'afflusso del turisti, insomma, dell'afflusso del turistico, del commercio e della vita culturale. E noi in questo momento non possiamo distruggere, noi dobbiamo assolutamente puntare a incamerare risorse. E quindi non possiamo bloccare la città in un progetto futuristico che può avere anche una sua valenza per certi versi, ma che non detto solo da me, ma da gran parte delle regine e delle associazioni, quasi tutti sono d'accordo che il progetto è devastante. E quindi ci sarà una fortissima opposizione, e dico l'ultimissima cosa, è che secondo me, questo è un parere mio personale, che il museo, la vicenda del museo attuale è paradigmatica, nel senso che se i regini riescono a opporsi a questo progetto, significa che si apre una nuova stagione del protagonismo dei regini rispetto a tutte le opere pubbliche che sono state programmate, che sono rimaste sospese, e per quelle future che verranno. E poi mi sembra che il dissenso sia esploso, tra virgolette, già quando c'è stata la possibilità ventilata di portare i bronzi fuori, si erano mobilitate delle persone, quindi forse è un dialogo che già sta iniziando un po' ad esserci tra il regino e la città e la gestione, diciamo. Sì, ricordiamo, non dobbiamo dimenticare, e questo è un aspetto importante, spero che le attività dell'Auso, qua, dell'Auso on Bach, siano, io credo moltissimo in questo progetto, credo moltissimo, perché è un progetto che rivaluta non solo la dimensione ludica, la dimensione aggregativa della condivisione, la cena è un esempio di anche un momento ludico. Prima della trasmissione radiofonica, ma anche un centro di elaborazione intellettuale, di creatività, certo, e che possa dare una svolta, un forte input a tutta la città. L'idea è di creare eventi di carattere ludico, ma anche artistico, sociale, quindi creare uno spazio in cui dialogare grazie a internet, al web, la radio, poter portare anche fuori i ragionamenti che facciamo, come in questo caso, e quindi allargarli anche alle altre persone, sicuramente. Sì, io vorrei lanciare proprio in questi giorni, stocconiando un termine che poi adesso domani ci vedremo alle 6:30, ci vedremo alla Libreria Culture con tanti amici, perché ultimamente è venuto fuori questo termine e l'ho definito una sorta di empatia umanistica, ecco, l'empatia è un concetto che secondo me manca moltissimo ed è necessario che riflettiamo su questo concetto qua per sconvolgere un po' quella che è la condizione antropologica di noi reggini. Forse il reggino in questo momento sta avendo un po' più empatia per la città. Sì, proprio perché c'è questa partecipazione che magari in passato c'è stata o comunque è stata un po' nascosta dietro altri sentimenti. Sì, ma diciamo che secoli di colonizzazione, come dicevano gli antichi romani, divide et impera, no? Quindi noi siamo sempre stati divisi, non abbiamo una nostra cultura di fondo, ma basta andare da Reggio a Gallico che già trovi delle sfumature antropologiche notevolissime, nel linguaggio, nelle sfumature dialettali, tutto. Manca questo, secondo me nella nostra terra manca una omogeneità di percezione culturale, di sentire, che è necessario proprio per rinascere, proprio per ricostruire insieme, perché se non si prova a ricostruire insieme non si fa da nessuna parte. Chiaro. Quindi l'empatia, la capacità di ascoltarsi e capirsi, comprendersi, entrare in questa comunione quasi spirituale, insomma, sarebbe opportuno che il reggino imparasse a comunicare e stare più a contatto con i suoi vicini di casa. Assolutamente, ma questo c'è anche un problema proprio concreto di rigenerazione urbana, cioè di spazi, così noi siamo nella Magna Grecia, siamo nei figli della Magna Grecia, per quanto sulla Grecia dovremmo fare la trasmissione solo così come tributo da pagare, certo, che noi oggi abbiamo i bronzi sui quali puntiamo, quindi è un'eredità che ci hanno lasciato, sì, ma ci stiamo dimenticando quello, il dramma devastante che sta vivendo la Grecia, e forse dovremmo fare anche qualcosa, dovremmo anche aprire un dibattito un attimino su questi nostri cugini, diciamo così. Ma al di là di questo, a Reggio probabilmente, non voglio sembrare drastico, ma è mancato l'Agorà in questi anni, uno spazio dove i reggini ci sono state colate di cemento in posti storici della città. Parlavamo prima di spazi, basta pensare alla villa comunale, per dire che è stata una colata di cemento ed è tutto inutilizzato. Abbiamo Ecolandia, per dire, uno spazio costruito apposta per l'aggregazione che non funziona. Sì, lasciamo stare. Abbiamo un'esperienza molto personale. Quindi manca la partecipazione, mancata la partecipazione attiva. Io credo che un fattore importantissimo e determinante anche riguardo alla condizione attuale, insomma, di questi buchi di bilancio, di questi debiti che abbiamo, che purtroppo sono tanti, adesso non per attestare gli ascoltatori, per carità, ma i numeri sono numeri, però su questo poi ci sarà modo poi di approfondire anche le soluzioni, perché dobbiamo uscirne fuori da questa cosa qua. Assolutamente sì. Poi io metto anche una nota un po' poetica: il fatto che in queste colate di cemento indiscriminato è finita anche una fontanella, solito, quella là che era a Santa Caterina, questa fontanella che era ormai comunque diciamo storica, nel senso che erano fontane quelle veramente una volta, era sopravvissuta al terremoto, alla guerra e a tutto il resto ed è stata recentemente abbattuta per creare uno spazio antistante un condominio. Quindi sì, neanche sì, un'opera vera e propria, c'è uno spazio vuoto di cemento solo per permettere. Sì, e quindi abbiamo questa cementificazione selvaggia, diciamo così, che poi anche la legge urbanistica prevede uno spazio minimo di verde rispetto agli abitanti. Esatto. Noi siamo ben sotto la soglia minima prevista dalla legge. E quindi ragazzi, dite incrociate anche per Reggio, per quello che insomma vedrà i reggini riappropriarsi anche del dialogo con la città, oltre che proprio degli spazi prima di tutto. E chiudiamo questa parte del programma con uno spazio musicale, e sono i Binar Pilot con Destroy the Pollution. Back.it, cliccate la cena dei reggini, veniteci a trovare, comunicare con noi cosa ne pensate di questa puntata, delle cose che abbiamo detto fin qua. Scrivetelo via mail o su Facebook, il gruppo della cena dei reggini. Adesso passiamo alla nostra consueta rubrica della classifica. Ragazzi, questa settimana una classifica molto particolare che toccherà sicuramente tante persone. e sono le 25 piccole cose che ti possono rovinare la giornata. Quindi quei piccoli dettagli che magari in una giornata possono fare la loro piccola differenza. Alla prima posizione comunque si inizia con un dettaglio che ci abbiamo anche messo un po' a capire all'inizio, perché la cosa che può rovinare la giornata è andare in bagno e trovarsi i calzini bagnati. E questa cosa è un dettaglio che però può dare fastidio, perché tra l'altro non sai se è acqua oppure il nonno ha sbagliato mira. Non è bello. Non l'avrei mai pensato, però può essere anche così. Andiamo avanti, che è meglio, con la prima e l'ultima fetta di pane. Questo è un grande classico. Sai quando si comprano il pane affettato, tipo al bomboletto, questi confezionati, questi panetti confezionati, la prima e l'ultima fetta è quella che non è spalmabile in un lato, e quindi tu ti chiedi che fine fai gli pane. Ma cioè, alla fine c'è chi la riusa tipo fette di hamburger per fare un panino unico. Mie vecchie esperienze, però comunque effettivamente non si sa mai che fine far fare. Questo non è più asciutto, non si può fare niente, è uno schifo, basta. Ovviamente. Altra posizione, una cosa che può rovinare la giornata è la musica da ascensore. E questo dipende dai gusti musicali, anche perché c'è quella musica ripetuta e ripetuta, dà fastidio effettivamente. Ma perché non devi farti 10.000 piani? Esatto. Dai, a noi ci va di lusso, non lavora in un grattacielo. A noi va di lusso a Reggio Calabria, massimo 3 piani, 4 piani. Direi proprio di no, perché questa ci abbiamo messo un po' a capirla. La definizione è la crocchia maschile, altrimenti io l'ho ridefinito il tuppo, cioè quella specie di codino imbalsamato sull'estremità della testa che gli uomini si fanno per simulare un codino, forse. Per scusa un attimo, dammi la definizione di codino imbalsamato. Eccolo qua. È un codino, però definizione verbale. È un codino. Codino imbalsamato. È un codino, però è tutto compatto là sopra a cipolla. Quindi è come imbalsamato. Cipolla. Codino imbalsamato. Nel senso compatto là sopra. Ed è una cosa che effettivamente, cara Sara, cosa ne pensi degli uomini che si fanno il codino imbalsamato? Scelte loro. Scelte loro, quindi alla fine alla donna non dà questo ribrezzo. Andrea, scelte loro, un po' quando dici non lo so. Girerei alla larga. Vedi. Però un pensiero profondo questo di Sara, grazie. Non pensavamo. Girare alla larga, vabbè, ci vuole anche imparare femminile delle cose, per cui. Altra posizione, abbastanza comunque di questi giorni, visto l'uscita dei nuovi iPhone, quelli che campeggiano fuori dagli store. In questo caso si parla ovviamente di store dell'Apple per l'uscita di qualche geniale prodotto della loro linea, anche l'iPizza, e quindi effettivamente fanno anche un po' sorridere. Vabbè, insomma, ma non solo per questi dispositivi, ora è il periodo di FIFA e FIFA, non quindi. Paura GTA 5. C'è gente che già l'ha definito il gioco preferito di tutta la vita, ma ancora non è uscito. Certo. Ma io ho visto però anche se conti che è costato più del film Avatar. Mi è passata la pena, quanto va. Effettivamente è un giocone. Ma non è uscito. Ho visto anche video di critica basate sui video di gameplay della versione beta. Cioè, come esce qualcosa di nuovo su sto gioco, viene comunque macinato dalla rete. Altre cose che possono rovinare la giornata, andiamo avanti. Le cameriere che cantano buon compleanno. Non a Reggio, perché non le paghiamo abbastanza. No, non è mai capitata questa cosa. No, non penso. E quindi forse possiamo McDonald's. No, là hanno questa cosa. Andiamo avanti col telecomando avvolto nella plastica. Si parla del guscio del protettivo per i telecomandi, quello là che tu metti, però effettivamente nella vita non serve molto granché. E poi c'è questo foglietto di plastica che si mette intorno per... questo è un classico delle persone che hanno le mani spesso unte e non vogliono digitare i tasti così, quindi lo girano col cello. Mia nonna lo faceva con le sedie. Incartava le sedie? Incartava le sedie. Io non ce la facevo più perché ogni volta riscaldavano perché era plastica. Sono andato di notte, li ho strappati tutti, lei si cercava di ricomprarli, non ha mai saputo che ero stato io. Fantastico. Ti voglio bene, nonna. Non è vero. E quindi ognuno va dichiarazione alla radio, però, ad incellofanare qualcosa. Altra posizione, le sigarette sulle orecchie, metodo antesignano del mitico Fonzi negli anni 60-70. La sigaretta appoggiata all'orecchio per un trasporto più veloce. Ma per... a chi rovinano la giornata le sigarette sull'orecchio? A chi le guarda o a chi le mette? Ma io penso a chi le guarda sulle bambinette di 15 anni. Come in foto. Come in foto. Sì, c'è una foto illustrativa che è abbastanza da... Queste sono due pseudo teppistelle di Seattle, sicuramente. Di quelle che apparisce tua madre e Troia cominciano a piangere. E beh, biasima. Altra posizione, quelli che applaudono alla fine del film. Qua, ecco, se c'è un trasporto emotivo veramente forte si può capire. No, vabbè, infatti... non è così fine... drammatico. Però... io ho visto gente che applaudiva alla fine di Madagascar 3. No. Ecco, là c'era veramente un disturbo mentale. Ma alla fine del film non lo fanno a casa. Devo censurare anche te, non basta, Panda. Panda! Dimmi. Si evoca il panda. Altra posizione, sempre quelli che applaudono, ma in questo caso quando atterra l'aereo. È qua. In alcuni casi può essere. E Reggio sappiamo che è sempre così. Tipo si gira il pilota perché dubitavate. Vabbè, a Reggio. Alla prossima, cadiamo. Altra posizione, i VIP che danno nomi ridicoli ai figli, è ultimamente successo un po' di tutto, con vari VIP che sono scatenati a dare dei nomi particolari ai ragazzini. Ma ne parlavamo prima con Andretti. Perché? Ti ricordi? Con Galileo Galilei, Vitellio Vitellozzi. Chi era l'altro? No, l'altro era il nome Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo è un gran bel nome. Comunque è bellissimo che mi è capitato, certo, al negozio una signora, mm-hmm, un tipico accento di Gebbione, chi non lo sapesse, un quartiere di Reggio, l'accento proprio di Gebbione, no? Che aveva che chiamava i figli Kevin e Nicolas. Ah, sì, sì, sì. Cioè, tipico nome reggino, no? E Kevin. Questi nomi anglosassoni stanno prendendo parecchio piede. Sì, sì, sì. Si vede la benedizione. Kevin, sì. Ma la nuova! Cioè, c'è sta tutto, però. Kevin, no, ma poi Pierino Kevin, in inglese, Kevin è il nome all'inglese, poi da coniugare con un cognome che sarà rigitano. Certo. Tipo Kevin Tripepi. Tripepi. Già sta bene. Nicolas Cuzzocrea. Tipo così. No. Fantastico, fantastico. Noi siamo come gli emigrati al contrario. Sì, che si può dire? Direi di no. Tanto non c'è squadra. Forse. Cavolo. Immagini. Incredibile. Immagini se la maggior parte degli ascoltatori fosse mafiosi. Salutiamo i mafiosi, sì. Voglio salutare il buon signor La Cosca. Aspetta, non mi ricordo come si chiamava quello. Ragazzi, che ragazzi, moderatevi con queste cose. Noi siamo, ciao papà. Noi siamo siamo la parte, andiamo avanti con la classifica. Siamo la parte siamo buona, gente positiva, d'onore, giovane. Altro punto della classifica è questo. Sì, le gemelle vestite uguali. Mamma mia. Nell'illustrazione appaiono le mitiche gemelline di Shining, che effettivamente quelle ti rovinano la giornata veramente. Quelle, ragazzi, se le vedi ti rovinano la giornata. Ma quelle veramente, cioè le guardi E secondo me questa immagine vale 100 volte i vari effetti speciali e le varie cose. Vabbè, sì. La compattezza, l'immagine, nella l'inquietudine dell'immagine. Ma quanto sono statici i genitori che comprano vestiti uguali per lo gioventino? Più o meno anche quanti miei. Io non ho un gemello, però io e mio fratello ci vestivamo. Perché spacciavano che... No, una cosa che ho sempre odiato. E ora quando guardo le foto, dico, cioè, mi vergogno, non lo so. Fantastico. Bravo. Anche a te è capitata questa cosa, sai? Sì, no. Vabbè, ma stessi occhiali. Solo azzurri. Perché c'era, come tutti i gemellini, no? C'è la parte più wow, la parte più ma tra l'altro non so se sia scorretto da un punto di vista, penso anche demagogico. Secondo me gli rovinava l'infanzia. Appunto, io l'avevo letto che era avevo letto che comunque era anche sbagliata questa abitudine, che sembra simpatica ma non lo è. Andiamo avanti con, e questo è un punto molto tecnologico, subire un poke su Facebook. Adesso molti pochi hanno capito cos'è il poke, gioco di parole. Pochi, non fai ridere! E allora lo spieghiamo che cos'è il poke, era Andrea. Vai, dici cos'è il poke. Il poke all'inizio era, tu mandavi un poke a una persona. Se lui rimandava i poke indietro, tu potevi vedere il suo profilo come se fosse un amico, per un certo periodo di tempo. Poi man mano una cosa hanno detto, ehi, che minchia si sta a fare, e quindi è diventato un trillo di MSN. Che bello. Addirittura adesso non so se c'è ancora. Penso che l'abbiamo tolto alla fine. L'ho fatto bene. Quindi era una misura un po' anti-stalker, che però alla fine era velleitaria, perché ormai... Poi beh, di questi tempi ormai si fa poca selezione, penso, perché è diventato uno strumento talmente diffuso e talmente... Facciamo chi ha più amici su Facebook! dramma, anche perché poi la vita reale è cosa diversa. Andiamo avanti con... questo è molto brutto, molto... Il rossetto sui filtri delle sigarette. Perché? Perché veramente, cioè... Guarda che immagine, vedi un filtro da sigaretta con lo sotto, da quest'idea di decadenza, di... capisci? Di America anni 60, tu vai subito a pensare a paradigmi strani della vita, però sì, anche quello è un bel problema, ma... andiamo avanti, che veramente c'è poco da aggiungere. Molto. Questo è un tormentone dell'ultimo anno, comunque, di vita internettiana, la serie Keep Calm and questo and svariate declinazioni in cui è stato usato questo manifesto dell'epoca, mi sembra classica inglese, è stato trovato da alcuni ragazzi, uno scantinato mi sembra, stavano sistemando, gli è sembrato abbastanza curioso, l'hanno messo su internet ed è diventato un tormentone delle navigazioni e comunque su internet, un meme cosiddetto. Molto, ne ho anche uno qua all'house. All'house c'è quello Keep Calm and Drink Coffee, regalato nel mio compleanno. Poi c'è le magliette, ormai fanno di tutto. Ormai è un brand inarrestabile. Voglio uno Keep Calm and Drink Red Bull. E perché no? Scrivi alla casa di autrice. Scrivi alla casa di autrice. Con la luce, no? Incorporato. Andiamo avanti, ristoranti con i menu con sulle immagini degli alimenti. E poi non è fastidiosissimo, però comunque... questa idea è un po' da ristorante giapponese anni 90, dove tu vedi il pesce, il filetto di carne nel soldato. E poi alla fine non sai come si chiama, quindi questo. Esatto. Ma soprattutto le immagini del cibo non corrispondono mai alla verità. Avete mai visto un Big Mac in un'immagine, un Big Mac vero? Sì. Ecco. L'esempio almeno, perfetto. Ci sono almeno 5 centimetri di altezza di differenza. Sì. I cornetti di qualsiasi marca. I cornetti della Baudi. Sembrano buonissimi. I saccottini. I saccottini che sull'immagine sono pieni di Nutella, tu li apri e c'è tipo... Sì, non sì, lo sì. so, una coltellata. Ci creiamo un Banderas della Terra. Ma i cornetti che tu li compri sono nella, li vedi là belli pomposi nell'immagine e già sono raticici. Poi tu li scarti e sono, invece di soffici, sono cornetti. L'umiliazione è quando lo apri e non c'è neanche la marmellata, c'è una fotocopia di marmellata stampata sulla parte superiore. No, c'è proprio il foglietto dentro, questa è marmellata. Mettere marmellata qui. Keep calm and imagine marmellata. Immagino, non commetti. È l'immaginazione, del resto sono tempi. Ma questi film dovrebbero mettere anche Antonio Banderas, non posso più. Perché? È la famosa pubblicità. Chi è Antonio Banderas? Ormai non più. Da quando si è affiliato alla pubblicità del Mulino Bianco ha perso. La gente mi odia. Perché tutti mi dicono, mi dicono i nomi dei personaggi famosi che io non conosco, ma come fa a non conoscerli? Antonio certo. Banderas lo conosco pure le galline, certo. Sottile. Andiamo avanti. Sottile, molto sottile. Andiamo avanti con un punto, diciamo, molto estetico. Gli occhiali da sole usati come cerchietto. No. Sì. No. Pensavo la comodità comunque di portarsi di notte. Vabbè, quello è un altro discorso, perché là c'è proprio là. Ragazzi, il prossimo punto è scottante. Io ne so qualcosa. Signore anziane che si vestono con abiti che richiamano animali. Nella foto la classica signora, comunque già un po' avanti, leopardata, grande classico di tutte le domeniche in chiesa. E nell'occasione, nella foto, anche un occhialetto trasgressivo un po' tigrato, quindi molto particolare. Perché queste donne si vestono così? Non lo so, ma soprattutto perché si mettono i fusò tigrati e leopardati, che poi a una certa età, voglio dire, i fusò evitali proprio. I leggings, non so, ma di sì, forse ma poi perché queste cose arriva... leopardate così si arriva forse sono a quella... un po' aggressive, cioè superate una certa età dovrebbero può evitare questo. Te le devi immaginare con il tanga leopardato e ti fanno rallo. No, ecco, già la cena sta tornando su, basta. Meglio di no, ragazzi. Terribile. Forse il fatto di non avere più nulla da perdere, nel senso che ti possono anche permettere un completino trasgressivo, perché tanto le mani muoio. Addirittura. Ragazzi, torniamo un po' indietro negli anni 90, soprattutto. Piccole cose che rovinano la giornata. Nuovo punto: quelli che attaccano il cellulare alla cintura. Adesso mi sembra di non vederli più tantissimo. No, non si usa più tanto. Ormai, però negli anni 90 tirava parecchio questa cosa. Sì, sì. La comodità di avere questo cellulare. Anche forse per la forma dei cellulari che è un po' più cambiata. Ed è il modo in cui mi hanno rubato il mio primo cellulare da tutto. Cioè ti hanno sfiato dalla cintura? Sì. Fantastico, ecco perché. È fantasticissimo posso... proprio. Entusiasta. Ecco perché non si usa più. Forse ma infatti non si sarebbe mai dovuto usare, perché comunque penso che tutti abbiamo preso un cellulare in questo modo. Tu stai zitto. Neanche io, sinceramente, vero. La comodità, quest'uso, che dà anche questa estetica un po' da minatore dell'Arizona anni sì, 80. Sì. Cioè questa... Vabbè, ma è un po' come l'utilizzo del marsupio, che è stato sì. sostituito dal borsello, perché sì, effettivamente ormai. Se ora vedi uno in giro col marsupio viene un po'... sconforto. Un po' sconforto. Un po' di rovina la giornata, come ottavo punto. Mettiamolo, segniamolo tra quelli possibili. Cosa che rovina la giornata? L'elastico slabbrato dell'intimo. No, ragazzi, qua veramente non si può scherzare. Qua siamo veramente... Non si può scherzare, qua è veramente un guai. A me non è mai successo. Se capita è da sostituire. Assolutamente. Non sono cose su cui si può trattare. No. Quello altro che ti rovina la giornata. Ti rovina parecchio la giornata. Pensa poi l'incontro galante. Vabbè, ma sai, là forse nella foga passionale si può su questa. Ma quando cammini, perché dici no vabbè, si sillabato mentre devi tirare su, fai le mosse alla Totò che imitava Pinocchio, cioè quello non è meglio. No ragazzi, là no. Andiamo avanti, che è meglio, con un grande classico di tutte, soprattutto le grandi catene commerciali, i prezzi che finiscono con 99 centesimi. Quanto li odiamo? Io tanto, perché io lavoro in un negozio e tutto finisce con 99 centesimi. Spiegavo perché si è fatto qua, perché? Ma è una questione psicologica, cioè quando tu, come nell'immagine, vedi il prezzo 59,99 euro. Cioè, per te è 59 euro. Cioè, dire 60 euro. 60 euro sono 60 euro. Quando vedi 59. Io penso anche che la mente focalizzi il primo numero. Il primo numero, quindi, perfetto. Quello per te 59 è 59, se è rimasto ancora 50. Ancora sei sui 50. Se tu vai sui 60 e 00, sei già sui 60. Cioè, io ho notato che ci sono persone che il frigorifero, per esempio, da 5,99 per loro è totalmente diverso dal frigorifero da 619, cioè sono 20 euro di differenza. Per loro sembra, cioè, che gli sto proponendo chissà cosa, no, mi fanno questo viene 600 e quello da 5,99 che viene sempre 600 viene. No, l'ho notata spesso. Sì, per me mi rovina la giornata perché non ho mai il centesimo di resto e quindi poi c'è la gente che mi fa le battutine, ma sì, se lo tenga, le porta fortuna. No, oppure quello peggio, tipo ce lo scontiamo la prossima volta, poi vengo in modo a dare un doppio, queste cose. E comunque diciamo uno c'è sempre l'idea che ti dirò il resto, quindi quella cifra sia. Forse anche per quello, avere un qualcosina in cambio è un item mentale che forse è importante. Poi capiterà sicuramente anche quello che effettivamente ragiona e dice vabbè, come ti posso 60 euro? No, sì. No, ma ora ultimamente lo stanno dicendo un po' tutti, perché quando gli dici 59,90 loro dicono vabbè, 60 euro. Sì, 60 euro, però poi quando io ti devo tornare i 10 centesimi tu te li prendi, non è che mi dici no vabbè, lascia stare. È là la vera differenza. Ragazzi, andiamo avanti con, e questo anche un po' anni 90, la data nelle fotografie. Quando scattavamo una fotografia, una volta era assolutamente imprescindibile che ci fosse la data impressa in maniera indelebile, perché la foto aveva anche questa, vabbè, aveva anche questa funzionalità di ricordo in perituro, quindi comunque c'era un'altra cosa. Che tra l'altro prendeva tutta la foto, non è che stava in un modino. C'era quello di mio padre che aveva il font grosso 2 centimetri, sai perché sono fatte per essere difficilmente taroccate. E infatti non sono mai con un bordo compatto, ma sono sfocate. Per in caso di contestazioni giuridiche devono fare red in quello, però comunque sono ormai veramente superate, anche perché ormai le cose che si fotografano di più sono i piatti da mangiare e le cosce quando si va a mare. E i bagni. Conosciamo i bagni di mezzo mondo, credo. Grazie alle foto. C'era addirittura una foto di una tizia che si faceva la classica posa in costume. Sì. Con un bello stronzo gigante in cesso. Così sono gli autoscatti meno riusciti. Lasciamo. Ragazzi, andiamo avanti che mai. Cosa che veramente sono, diciamo, chiamiamo le licenze in poi. Le cose che possono rovinare la giornata è sicuramente una giornata difficile, rovinabile di suo, è il lunedì. Il lunedì, questo ritorno alla vita lavorativa, questo ritorno comunque alla vita comunque partecipata, ma soprattutto obbligata, dà di per sé fastidio dopo una domenica molto rilassata. Sì, c'è stato un film proprio su questa cosa, non so se ricordate quel film di Cenerentola, John Lui, un giorno arrivo io di lunedì mattina nel paese, doveva rivitalizzare la vita di lunedì mattina. C'era anche un altro film che trattava un argomento simile, però da un altro punto di vista, adesso non mi ricordo il titolo, in cui forse era Tutti in una notte, dove il protagonista andava per entrare al lavoro, accadeva tutto quello che accadeva durante il film, quindi inseguimenti, tutto lo spannung della cosa eccetera, si ritrovava di fronte al posto di lavoro esattamente all'inizio dell'orario di lavoro, e quindi alla fine del film andava regolarmente al lavoro. E questa è la tragica coincidenza del lunedì. Meno male, non ho sto problema. Lunedì mattina il negozio è chiuso. Ecco. E ragazzi, la moda del momento, che può allietare anche i presenti, quelli che fanno twerk in pubblico. Ma cos'è il twerk? Andrea, descrivi, dicesi twerk. Allora, cosa? Che è? È un movimento molto grosso. Di che? Un movimento proprio. Un movimento culturale. Culturale. È praticamente. Ci sono. Vabbè, mi pare che. Ci sono delle. No. Delle creature. Tieni un tono alto, non usare parolacce. Delle meravigliose creature notturne che si poggiano a qualcosa e cominciano a muovere su e giù il deretano. Lo vedi come basta riprendere il muscolo gluteo. Muscolo gluteo. Tra l'altro l'ha fatto una famosa star della Disney. Che infatti è stata. Infatti è stata abbastanza presa per il culo. Spero che se ne sia pentita, perché ha fatto schifo. Direi assolutamente di sì. E quindi questo gesto sta diventando una piccola moda una sorta di anche momento esibizionistico femminile, perché comunque non passa diciamo inosservato, ed è abbastanza. Ragazzi, infatti si continua e si va verso la fine con quello che è stato il twerk più discusso sicuramente dell'ultimo periodo, quello di questa star Miley Cyrus, che ha fatto questo gesto, questa specie di spettacolo, vogliamo chiamarlo così, durante una diretta televisiva. Poi voglio dire, scusa, vuoi farlo? Ma almeno abbi culo. Quello non è un segreto. Vabbè, adesso non entrare nelle critiche di Andrea. Lo vedi che è tornato giù, lo vedi? Ho detto sedere che invece di guarda, già è qualcosa. Quindi l'ultima posizione è quelli che propongono qualsiasi cosa che coinvolga questa Miley Cyrus, questa tizia che già diciamo chiamiamo l'artista che la sta sfondando in senso ma poi sono io, no? Sta sfondando in senso che sta facendo parlare molto di sé, che avete capito, okay. Sporcacciami. Io sono di un certo livello nella cena e dico che la ragazza sta sfondando, perché comunque con questo gesto, con questa performance sicuramente discutibile, però sta effettivamente facendo parlare di sé. Vedi una donna con questa lingua alla Venom molto fuori, che comunque si esibisce così sul palco con questo movimento di glutei. Ma com'è i capelli? Non ho ancora capito. Non lo so, sinceramente non mi interessa. Tra l'altro il marito l'ha pure lasciato dopo aver fatto quello che si doveva sposare, l'ha pure lasciato. Ha fatto assolutamente bene. Cosa? Siamo tutti solidali con quest'uomo. E adesso, ragazzi, questa è la fine di questa classifica che ci ha un po' allietato in questa mezz'oretta, insomma, adesso continuiamo, ma prima aspettiamo anche un vostro riscontro tramite www.tbac.it, cliccare la cena dei regini e scriverci le vostre personali piccole cose che potrebbero rovinare la vostra giornata, che la rovinano quotidianamente, insomma. Il vostro parere su queste cose. Adesso l'ultimo spazio di musica, i Danish Daycare con Apple Pussy to Sins. Make this go away. I wouldn't make any change. E ragazzi, Giri, ci è andata bene anche questa volta. Ringraziamo tutte le persone che hanno portato del cibo. Andrea che ha preparato dei fagioli con il pollo, la nonna Ernesta che ci ha preparato delle deliziose melanzane ripiene, poi altre cose, insomma, ce la siamo passata bene anche questa sera, fino al goccino finale di Amaro del Capo che ha comunque siglato per bene la serata. Ragazzi, se vogliono partecipare alle nostre cene, che si prenotino, cominciano a prenotarsi, certo, ma soprattutto devono scrivere, diciamo, www.bac.it, la cena dei Regini, cena@bac.it, possono scrivere il motivo per cui vogliono essere invitati. Cioè, se hanno un racconto di vita, una situazione particolare e ci vogliono venire a condividere qua, possono farlo, un progetto di 10 anni. Ragazzi, adesso il gioco più atteso da tutti gli ascoltatori della Cena dei Regini, perché è l'unico gioco della Cena dei Regini, il suono misterioso, ovvero indovina chi suona a cena. E abbiamo un suono veramente particolare, che è innovativo, quindi adesso massima attenzione e ascoltiamo il suono misterioso, vai! A posto, ragazzi, cos'era? Cos'era? Io do anche già un indizio, c'era un ritmo di mezzo, cioè non era un suono a casaccio, non era una cosa, c'era un ritmo. Quindi ragazzi, pensateci molto bene. Ho capito. Avevi vicinare? No, non lo so. Ma magari ti mando un'email. Certo, ma soprattutto riascolta il podcast portandolo indietro. Ascolta veramente attentamente questo suono, perché cos'è. Ragazzi, detto questo, un saluto a tutti, alla prossima cena e speriamo bene. Seguiteci adesso anche su YouTube, dove faremo qualche spezzone, qualche video anche là. Un saluto a tutti dal Bacca, settimana prossima. Ciao! Ciao!